sul letto agitato del mare, che le onde vanno a riposare. Gli anfratti dei pensieri con un tuffo vanno a scrollarsi, nella penombra si scorge un paesaggio suggestivo. L'infinità del mare lo rende più furtivo. Il mare dalla riva assume colori incerti, figli di scorci prediletti. In lontananza una barca ritorna a casa, un peschereccio. Il pescatore raccoglie la sua fortuna, torna a casa a sfamare la famiglia che si raduna. Pensieri sparsi, libertà di volare con la mente. Questo è il mare, completamente ci fa estraniare. Pensieri sparsi, libertà di volare con la mente. Questo è il mare, completamente ci fa estraniare.